L'appello è nato quasi come reazione istintiva alla notizia della morte di Lorenzo. Personalmente, diciamo, conta anche il fatto che ho due figli dell'età, di quell'età, che vanno a scuola, sono fortunati, tra virgolette, perché facendo il liceo, fanno il PCTO, attività di alternanza scuola-lavoro veramente più leggere o comunque più compatibili con un percorso scolastico. Ma da sempre ho sempre pensato che fosse del tutto innaturale e contraddittorio con l'idea stessa della funzione educativa e pedagogica della scuola, che durante la scuola che appunto nel percorso scolastico si costringesse a lavorare, anche perché senza quella certificazione non possono accedere alla motoria. A scuola ci si va per studiare, ci possono essere dei momenti di apertura alle attività professionali, al mondo del lavoro, ma dovrebbero essere, come abbiamo scritto nell'appello, chiaramente integrati all'interno del percorso formativo, con un coinvolgimento dei docenti, con una modalità che abbia veramente a che fare con la scuola. Quello che ci sembra poco accettabile è questa scorsa, questa fretta a dover creare della forza lavoro da subito, a già 16 anni, e soprattutto il fatto che se mandi un figlio a scuola deve stare, non puoi trovartelo poi morto perché una putrella gli è caduta addosso. Questo mi sembra una questione anche proprio di civiltà. Nell'appello voi sottolineate che in molti casi le aziende accedono all'alternanza scuola-lavoro perché sostanzialmente è manodopera gratis, senza diritti sindacali, senza tutele. Sì, ovviamente ci sono le tutele e i diritti che sono garantiti dagli accordi siglati, ma ovviamente non sono quelli che riguardano. Ma questa cosa è abbastanza strana, perché poi si trasmettono saperi, competenze che sono spesso molto semplici, molto banali, che non ci vuole molto a impararli. Diverso è andare a vedere come funziona un ciclo produttivo, ma allora bisognerebbe vedere tutto il ciclo produttivo, dalla progettazione, dalla strategia aziendali, ai bilanci. Cioè, se devi imparare come è fatto il mondo produttivo, devi guardare dall'esterno, puoi anche fare un percorso in fabbrica a vedere come funziona, ma l'idea che tu debba lavorare durante la scuola, perché, e questa cosa sta passando a livello di massa in maniera molto forte, perché così ti avvantaggi nel mercato del lavoro, credo che sia quella competizione al basso, diciamo, della forza lavoro, quella più grezza e anche più crudele per certi versi, che sta segnando tutta la nostra concezione del lavoro stesso. Questa corsa frenetica per cui i ragazzi devono sbrigarsi e possibilmente non fare liceo, possibilmente non fare le attività umanistiche, possibilmente fare solo attività super tecnologiche e scientifiche, perché devono assolutamente entrare in un mercato del lavoro che non ha posto per loro, perché la disoccupazione giovanile sono anni che rimane ferma al 30%. Non è che l'alternanza scuola-lavoro ha modificato i criteri e le modalità di ingresso nel mondo del lavoro. Tutto questo in una situazione in cui la scuola, durante questa pandemia, sta mostrando tutto quanto il disimpegno da parte dello Stato. Diciamo, è un'affermazione totalmente corretta. Basta guardare la questione delle classi pollaio che viene ogni anno riproposta tale e quale, o ancora più semplice, i condizionatori d'aria o la ventilazione delle aule, che non è mai stata realizzata. In due anni di pandemia le scuole sono rimaste esattamente come erano due anni fa. L'unica differenza è che dei ragazzi che sono in classe, invece di stare seduti al banco liberamente, ci stanno con la mascherina. Questa è l'unica vera differenza che c'è da quando è scoppiata la pandemia. E questa situazione grida è una vergogna assoluta. È una vergogna assoluta anche perché un po' di fondi sono stati stanziati e non è chiaro come siano stati spesi. Ma anche in questo caso si rivela una realtà abbastanza evidente a tutti, sia per la scuola che per la sanità o per il trasporto e per altri comparti. Cioè il servizio pubblico italiano, i servizi pubblici, sono del tutto privi di una regia e di una strategia che faccia i conti con la vita reale delle persone, con i bisogni effettivi e in questo caso con un'emergenza di portata planetaria. Come si fa ad aderire all'appello? Ma semplicissimo, abbiamo istituito una mail noscuolalavoro@gmail.com, ma stiamo lavorando per metterlo su change.org, perché sta diventando complicato stare dietro alle adesioni, perché sono tantissime, nonostante l'abbiamo promosso in due individui, due persone che magari hanno sì una certa esposizione mediatica per quella che vale, ma senza incarichi pubblici, senza nessun ruolo politico, sindacale, associativo, eccetera. Quindi, però le adesioni sono veramente tantissime, segno che c'è una fortissima sensibilità su questo tema.